Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Magazine ci hanno tenuto compagnia durante il weekend e ci tengono compagnia anche durante la settimana, la rassegna che sottolinea alcuni appuntamenti che presenti anche al Breakfast Club nelle rubriche Voltiamo Pagina e In Mostra, a volte anticipandone i contenuti, a volte seguendo e a volte, come in questo caso, in contemporanea. Ma iniziamo dalle prime pagine, no? Come la lettura delle prime pagine, iniziamo anche i magazine con una prima pagina. È la prima pagina della domenica, legato al Sole 24 Ore. Dal corpo alla mente, filosofia del con vivere, con tra parentesi, sono lezioni di vita per Maurizio Ferraris. Scrittura, lettura, condivisione di documenti ci insegnano che siamo animali socievoli, inestricabilmente legati ad altri, a chi ci è vicino e a coloro di cui leggiamo dopo i secoli. L'articolo che vi è importato da Anna Livigni in prima pagina della domenica, per il lavoro di Maurizio Ferraris, filosofo, scrittore, saggista. Imparare a vivere, vivere, sopravvivere, previvere e convivere, edizioni La Terza, per questa recensione che dà compimento oltretutto a un corredo nel lavoro di alcune riflessioni, ci porta indietro nel tempo. Il buon filosofo riesce a guardare ogni evento della vita, lieto o spiacevole, si dice, no? Prenderla con filosofia per poi trasformarlo in una preziosa riflessione per sé e per gli altri. Pensiamo allora a Seneca, che viene mandato in esilio in Corsica, la madre preoccupata, e lui scrive e dice: non preoccuparti, guarda che qui, sì, certo, non è la Corsica che immaginiamo come meta amena e turistica, assolutamente selvaggia e molto lontana rispetto alla famiglia che Seneca aveva lasciato, costretta a lasciare per motivi di dissenso in patria. Arrivato in Corsica dice: ma qui non sto poi così male. Poi pensa: mamma, quanto modo che avrò per riflettere, per lavorare, per pensare, per affinare il pensiero e allo stesso modo per poter lasciare qualcosa di importante anche attraverso a questa esperienza di isolamento. Non sono solo, sono con i miei pensieri che potrò comunicare e potrò oltretutto raffinare in questo, non dico esilio dorato, però insomma in questa situazione molto molto particolare, che par di solitudine ma che di solitudine non è. Lo stesso autore, purtroppo per un incidente importante, si è fratturato l'omero in maniera importante, ha avuto modo di scrivere tantissimo. Se mai è possibile sapere di non sapere cosa sia alla fine la vita, e se mai è possibile imparare a viverla e a viverla così bene. Stanto a quanto scrive due mesi prima di lasciare il mondo l'amico fraterno di Ferraris, che è Jacques Derrida, imparare a vivere non è possibile, perché significherebbe accettare definitivamente il fatto di dover morire. Ah, sono parole forti e ci mettono anche una certa tristezza, però se si accetta l'idea heideggeriana che la morte conferisce alle nostre azioni un orizzonte di senso, è anche vero che il pensiero della morte, una volta inoculatosi nella mente, non ne esce più, ci intristisce, ci spaventa. E con l'autore esercitiamo un sano realismo: il nostro tempo ha veramente una scadenza ultima, al di là degli alibi che ci procuriamo, e la realtà che ci oltrepasserà esisterà ancora e indipendentemente da noi, quindi e quando noi saremo trapassati. L'errore fatale che possiamo commettere è quello di ignorare la questione, come il pesce dell'aneddoto raccontato da David Foster Wallace, che pare dovere di cronaca, lo diciamo, si è suicidato e che campeggia quale simbolo sulla copertina, tra l'altro, del lavoro del libro di Ferraris. Due giovani pesci nuotando ne incontrano uno più anziano, che chiede loro: ma com'è l'acqua oggi? E uno dei due giovani risponde: scusa, ma che cos'è l'acqua? ma uno dei due giovani risponde in questo modo, in maniera totalmente assente: come l'acqua per i pesci che non sanno di nuotarvi, così può essere per noi una nuova vita vissuta nella totale inconsapevolezza, il che costituisce un grande peccato, se non religioso, di certo e indubbiamente filosofico. Qual è l'antidoto a tutto ciò? Non tutto è perduto e Ferraris ripone salda fede in quella che egli definisce, con un ossimoro solo apparente, la cultura tecno-umanistica. Noi esseri umani siamo infatti composti da due nature indissolubili, una prima natura organica che cessa con la morte una volta per tutte e una seconda natura tecnica capace di sopravviverci. Io quando sento la parola tecnica al giorno d'oggi mi metto un pochettino sulle difensive, però che è anche umanistica nella misura in cui l'essenza di Homo sapiens coincide per natura con la sua abilità tecnica, e ciò sin dai tempi remoti in cui imparò a fabbricare manufatti, a raccogliersi in gruppo attorno al fuoco per narrare storie. Infatti l'artefatto tecnico più straordinario di cui dispone la nostra specie è la scrittura, la trascrizione di storie in documenti capaci di trasmettere il sapere alla collettività al di là della cessazione della vita del singolo. Abbiamo trovato anche un sistema per rendere un percorso, non dico di eternità, ma andiamo molto vicini, Adesso alcune modalità di comunicazione sono rimaste nei secoli, nei millenni addirittura. Non so se i microchip o i chip resisteranno così tanto, però insomma c'è anche l'esercizio del previvere cui si dedica dai giovani immaginando che cosa sarà il futuro, da adulto, no? Fin tanto che il futuro non si fa davvero presente, si sovrasta col suo portato ingombrante di realtà. Possiamo previvere? Grazie. Pensate un po', in effetti è questo che ne dà la prova. È vero, perché possiamo previvere grazie opere letterarie o cinematografiche, insomma attraverso una finzione utile, frutto di quella cultura tecno-umanistica di cui si parlava in precedenza. Nella scrittura, nella lettura, nella trasmissione e condivisione di documenti c'è l'insegnamento più profondo e commovente che ci proviene da questo saggio, il convivere. Siamo animali sociali, inestricabilmente legati ad altri, a chi ci sta a fianco e a coloro di cui leggiamo a distanza di secoli. Così un'ovvietà, ho detto un'ovvietà, ne risultate un po' scettici? Beh, non credo che sia merito o sia meritorio di scetticismo il saggio di cui vi ho appena dato notizia, in quanto veramente lo scetticismo, la sfida al luogo comune, al sapere sterile, in questo caso non è un sapere sterile, e veramente portiamo agli archetipi della comunicazione con questo aspetto che ci porta a un tecnoumanesimo che non è ovviamente un aspetto di tecnicismo, ma semplicemente un percorso storico. Lo scetticismo, dalla parola greca skepsis, che significa dubbio, radice del verbo stesso che significa osservare attentamente, dunque esaminare, è una posizione filosofica, lo scetticismo, nell'ambito della gnoseologia, che nega la possibilità di raggiungere con la conoscenza la verità in senso assoluto. Poi c'è lo scetticismo ellenistico, quindi, come ho detto, siamo agli inizi di un pensiero filosofico, e lo scetticismo moderno. Sono saggi divulgativi che vengono presentati a pagina 6 da Alias, ovviamente nell'edizione domenicale, da Pirrone a Sesto Empirico, da Cartesi a Hume. Questa corrente filosofica è sempre stata attraversata da dibattiti e trasformazioni. Maria Lorenza Chiesara, 7 brevi lezioni sullo scetticismo, che vengono presentate e anticipate qui a pagina 6 dal Manifesto, nella edizione della domenica. Facciamo un piccolo stacco musicale con un po' di bossa e poi rientriamo, perché vi volevo parlare anche di alcune anticipazioni o in contemporanea tra letteratura e arte all'interno dei magazine che poi saranno al Breakfast Club. Dopo questi due paralleli che abbiamo fatto tra comunicazione, convivere e scetticismo, rientriamo parlando di un grandissimo scrittore, Percival Everett. A tra poco. Il mio amico fraterno Sergio per Radio Città Fugico al 333-180-9494. Lui sicuramente è un filosofo, è un grande piana, comincia la settimana in attesa al nuovo libro di Seneca, Come ascoltare il breakfast per sempre e vivere felici. Beh, è uno sforzo non indifferente, però il proposito indubbiamente è buono. Grazie Sergio, con filosofia siamo partiti e con la letteratura procediamo. Intanto penso a che corrente filosofica potrebbe appartenere Sergio, il nostro Sergio Fanti, che ringrazio, inviato esterno, protagonista per Radio Estensioni, insomma colonna anche lui di stazza per i 103.1. Sergio, non scrivere l'irmanesimo perché non vale, blocco le comunicazioni. Viene riproposto un lavoro di Percival Everett, per me grandissimo scrittore, un intellettuale afroamericano veramente raffinato. Nelle ultime pubblicazioni un momento di stasi, ma nei lavori iniziali della sua carriera veramente tra i più importanti. Non mi chiamo Sidney Poitier, uno dei suoi lavori più belli secondo me, Deserto americano, un altro capolavoro, beh, immaginario e anche immaginifico nella sua narrazione letteraria. Oltre che la critica troviamo una lucidità che ti rende il sogno assolutamente concreto. È un romanzo uscito 23 anni fa e ora riproposto tra un film e un romanzo in arrivo negli Stati Uniti d'America. Lo scrittore contesta il peso degli stereotipi nel dibattito sui temi razziali. Alcune idee del libro hanno ancora risonanza, ma lui dice: non ho obiettivi sociali. Lui porta il pensiero all'attenzione di una quotidianità, che può apparire, non dico banale, infatti lui aggiunge l'aspetto magico, ma queste note, queste parole sono accompagnate da un vivere costantemente determinate contraddizioni, una sottesa ironia, una scorrevole lettura e una grande capacità appunto nel comunicare. Infatti Sergio, ti volevo portare tra gli scettici, però hai aggiunto tra stoico e scettico. Esatto, ok. Analisi corretta, autoanalisi. A questa continua ricerca, in questo caso sto parlando di Percival Everett, che dice: io non mi cancello, che ha creato 23 anni fa il personaggio di Thelonious, questa identità che nell'intervista alla lettura al telefono da Los Angeles si riporta lui stesso da ragazzino, quando cercava libri sugli afroamericani e non si riconosceva perché raccontavano soprattutto la realtà pre-guerra civile o quella dei ghetti delle città. Nessuna delle due era la mia storia. Quanto mi riconosco in queste parole, secondo me non sono solo. Vivevo in una famiglia nera middle class, figlio e nipote di medici, non ero presente in quella letteratura. Un giorno ho letto un romanzo di cosiddetta pornografia del trauma sulla vita terribile dei neri, e certamente non c'è niente di sbagliato romanzi come quelli, ma mi ha colpito che ricevevano tanta attenzione perché assecondano una fantasia dei bianchi. Allora ho iniziato a scriverne una parodia ed è stato l'inizio di Cancellazione, questo romanzo che viene riedito in Italia, uscirà il 15 marzo, lo troverete nel Voltiamo Pagina, della Nave di Teseo. Per quanto riguarda la pubblicazione, è uscito in America, come ho già detto, 23 anni fa, mentre il 19 marzo arriva il nuovo James, quello che è un lavoro invece riportato adesso, il suo ultimo, come ho detto prima, la chiamiamola ristampa del lavoro Cancellazione, e poi James, sempre riportato dalla Nave di Teseo. E come ho detto, Cancellazione ora anche un film, commedia drammatica sull'ossessione della cultura a ridurre le persone e a stereotipi. Attenzione, perché andare ad analizzare e portarsi su questo terreno scivoloso, indubbiamente Percival Everett ne ha la capacità, ma non ridurre le persone a stereotipi. E questo il contenuto della Cancellazione, aspettando anche il suo ultimo lavoro, che invece, come ho detto, ha semplicemente titolo di James. Curiosità per questi due lavori, uno uscito 23 anni fa, non l'ho letto, ammetto, magari in Italia è arrivato col contagocce, mentre invece riportato dalla Nave di Teseo. Questo per quanto riguarda libri, a pagina 14 della lettura sul Corriere della Sera. Percival Everett ha questa analisi continua sull'identità e sul lavoro, sia su se stesso che, appunto, rifacendomi al principio dei magazine con l'articolo sulla domenica del Sole 24 Ore. Vedete, non è affatto banale, perché è con la comunicazione che si porta poi ad avere un dialogo a distanza e un domanda e risposta costante. E alla ricerca di tutto ciò, il primo lavoro invece che io lessi di Percival Everett, che consiglio e caldeggio, come ho già detto, per me è uno scrittore, un intellettuale afroamericano molto importante, il lavoro primo che lessi per nutrimenti e non sono Sidney Poitier. E a proposito di identità, questo ragazzo, appunto, che rispondeva a nome Sidney Poitier, e voi sapete bene Indovina chi viene a cena, tanti altri film per questa figura, e tutti ovviamente dicevano costantemente, con dei riferimenti a questo ragazzo afroamericano, al suo nome, addirittura oltre omonimia: ah, quindi tu sei. Allora lui si fa aggiungere anagraficamente "non sono", il suo nome è "non sono Sidney Poitier", e da qui in avanti poi ovviamente degli equivoci e delle situazioni paradossali. In uno dei lavori più illuminati per Everett, e anche Deserto americano è molto molto bello. Beh, ce ne sono diversi, anche la parodia sul West, che adesso non ricordo esattamente dal titolo, non vorrei fare confusione, ma è una parodia sul generale Custer, veramente un libro anche in quel caso, oltre che carico di ironia e di satira, anche tanti contenuti. Insomma, Percival Everett lo troverete al Voltiamo Pagina. Family, Nina Simone, pubblicità, poi si rientra, a tra poco. And the cows all took to drive, but the varmints left behind, and some took up to die. Trouble took to daddy, like dewdrops take to night. Mama took to... Ah, scusate, poi improvvisamente non ci pensi e ti viene in mente. Ecco, questa è una cosa. È Il paese di Dio, sempre edizione Nutrimenti, quello di cui vi parlavo con satira e ironia sul Far West. Il paese di Dio. Flowers took to daddy, and daddy he took to gum. Sister took to black real nice, and mama cried alone. Brother he took up preaching, and the bank man took to farm. Slate came and took my mom away, she can't do herself no harm. And I took a train out of there, I told the engineer, I don't believe there's no help. Heaven help the tie that binds the family. Save the family. Looks like only God. È stato un grande concerto quello di sabato al Torrione, al Jazz Club Ferrara, protagonista Roberto Ottaviano, la formazione Eternal Love, l'ultimo lavoro People, di cui stiamo ascoltando il brano qua come base Callas. Marco Colonna al clarinetto basso, Alexander Hawkins al piano, Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Ovviamente il frontman è Roberto Ottaviano al sax soprano. Ne parleremo poi nel Jazz Live, per ascoltati per voi. È stato un concerto coinvolgente e allo stesso tempo di grande livello. Comunque, ritornando ai magazine, attrae la mia attenzione un libro, pagina 9, nell'edizione invece di sabato di Alias, del Manifesto. Ci parla di battaglia elettorale, tra l'altro siamo a tema, no? Schermi nemici, film di propaganda della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Quindi diversi contenuti che per la televisione, per quanto riguarda le proposte che negli anni 50, negli anni 60 fino all'inizio degli anni 70 portavano questi aspetti in maniera culturale, anche di diffusione culturale e di contenuto tra piccolo e grande schermo. Mariangela Palmieri dà nuove voci alle ideologie contrapposte, alle conflittuali narrazioni della realtà italiana, e io da solito passatista ovviamente ne sono rimasto coinvolto sin dai tempi dei primi anni 70, quando ognuno ha il bambino che si merita, e poi voglio dire, io collezionavo i deplianti elettorali che arrivavano nelle buchette postali. A volte, se non ne avevo qualcuno e il mio vicino di casa invece l'avevo, andavo a sottrarlo all'interno della buchetta della posta, un pazzo scatenato, oltre che insomma non proprio corretto, ma indipendentemente dall'orientamento io li collezionavo e li leggevo tutti. Da proporzionalista convinto tuttora, insomma, quando arrivava quello che amavo di più, indipendentemente, anche perché per quel partito io non ho mai votato, paradossalmente, però quello che amavo di più era quello del Partito Comunista Italiano, perché arrivava sempre con un facsimile della scheda, quindi per me era come una raccolta di tutti i simboli per poter analizzare stemmi, slogan, sigle, acronimi, colori. In questo caso, invece, dal cinema alla televisione, se il PC utilizzava dietro la macchina da presa grandi autori del cinema di allora, Lizzani, Maselli, Pontecorvo, Petri, Paolo Vittorio Tajani, per porre un sigillo di qualità alle proprie opere, la DC sceglierà invece di strizzare l'occhio alla cultura di massa, utilizzando come testimonial personaggi di grande popolarità, Edoardo De Filippo, Aldo Fabrizi, Domenico Modugno, e qui forse sta l'elemento più interessante della ricerca di Mariangela Palmieri, ovvero del rapporto che i due partiti e le loro strategie narrative hanno da un punto di vista linguistico con la modernità. Allo stile documentario degli audiovisivi targati PC si contrappone lo stile più vario, fatto di documentario, finzione, sketch e anche cartoni animati della DC. Alla cultura alta portata avanti del PC risponde il linguaggio della DC, influenzato dai modelli di comunicazione di politica americana. Il tutto fino alla prima metà degli anni 60, quando iniziò a farsi strada il marketing politico e la comunicazione politica si adegua al piccolo schermo, mutando nei linguaggi e l'immaginario politico di riferimento. Tutto ciò riportato in questo libro di Mariangela Palmieri, Schermi nemici, film di propaganda della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Yeah, yeah, yeah. You got rhythm, I got rhythm too. Thank you. non avevo dubbi, caro Sergio. Anch'io subivo il fascino delle cartacce elettorali in buca. Non erano cartacce, dai. Lo sono diventate, purtroppo, quello sì. L'edera dei repubblicani, lo scudo crociato della DC, la falce e il martello del Partito Comunista, il garofano del Partito Socialista, il sole nascente del Partito Socialdemocratico, la temuta fiamma del Movimento Sociale. La rosa dei radicali e il tricolore con PLI, Partito Liberale. Comprare un quotidiano per sentirsi grande, beh, ognuno aveva le sue modalità, per anticipare i tempi di crescita. C'è chi faceva finta di fumare, chi imitava il papà mentre nell'atto del radersi la barba, insomma, io compravo un quotidiano, E la nonna che sgridava, lascia stare, la politica è una cosa sporca. Ma oddio. Da un, dai, non chiamiamolo folklore, da una cultura legata al passato di una politica nel proporzionale, arriviamo invece nell'arte, perché abbiamo dato anticipazioni per il voltiamo pagina. Adesso diamo anche anticipazione per quanto riguarda la rubrica in mostra. Si è tenuta la presentazione di un lavoro, si è curato di questo Lorenzo Pauri, che ringrazio tantissimo per quanto riguarda il servizio, che andrà giovedì nella Pinacoteca Nazionale a Bologna, l'apparizione della Vergine, le sante di Lavinia Fontana, 1552-1614, a lungo confinata nel deposito della Pinacoteca di Bologna, a causa del suo cattivo stato, è tornata visibile nella sala 22 dedicata al manierismo. Ne avremo modo di approfondimento nella rubrica in mostra che ci attende per questo giovedì, ma ho anche un'altra esposizione che seguiremo con grande attenzione, e ovviamente altrettanto importante la sede espositiva, la Magnani Rocca. Vedete poi la comunicazione, la mia nostalgia nelle immagini e nei loghi ha portato qualche riflessione. Luigi da Sasso, adesso specifica sempre Luigi la provenienza, da quando purtroppo un impostore ha sottratto il suo libro, oppure un equivoco, dai Luigi, ma sarai risarcito. Certo, allora dietro ad ogni simbolo c'era un'ideologia, oggi si vive di personalismi, scrive, già, ma di tante altre critiche che possiamo aggiungere. Paolo, mi sono fatto la barba con rasoio di papà a 5 anni. Ancora oggi a guardare bene si nota una piccola cicatrice sul volto. Buongiorno, attenzione. Io ti dico, portala come una medaglia quella cicatrice lì, portala veramente come un distintivo. Alla Magnani Rocca, Bruno Munari fu più di un designer di genio, un creatore di oggetti, un artista che non pose limiti alla propria curiosità. Il suo sguardo ha cambiato anche il nostro. La Fondazione Magnani Rocca gli dedica la più ampia monografia di sempre. tutte le cose del mondo e le altre, per cui ho anticipato anche le prossime due esposizioni protagoniste all'interno della rubrica A Regola d'Arte dei 103.1. Poi, come ben sapete, la Magnani Rocca, oramai co-conduttori della rubrica del giovedì del Breakfast Club. E con questo io mi congedo a voi, ringraziando per l'attenzione ascoltatrici e ascoltatori, dando appuntamento a domani con un Mood Groove che vi porterà al posto giusto nel momento giusto. Ne parleremo con un protagonista che ha avuto queste peculiarità in carriera cestistica. Il Mood Groove di domani, appunto, all'interno del Breakfast Club per mattiniere e mattinieri sui 103.1, per una buona prima colazione. Io vi auguro una buona settimana, un buon inizio settimana, un buon lunedì. Vi lascio con Esther Phillips che dice: e che differenza fa? È un giorno, what a difference a day makes. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona giornata, a domani dal vostro William Piana.